in primo piano. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24, in studio Daniele Bellasio, in regia Carmelo Lauricella. In primo piano sui giornali di oggi tanta economia, dal caso Cottarelli, il commissario alla Spending Review che dice basta usare la Spending Review per trovare la copertura a qualunque cosa, ma ancora economia, i dati americani che sono buoni sulla crescita, l'Argentina in default e due casi aziendali importanti italiani come l'Alitalia, la stretta finale dell'accordo con Etihad, stretta finale quantomeno preannunciata dai giornali, e poi l'ultimo giorno della Fiat totalmente italiana, in un certo senso un ultimo giorno per il lingotto e forse un primo giorno di una nuova Fiat. Sulle riforme, lo dicevamo ieri, nell'alternanza che assomiglia molto al clima di questi giorni, oggi è un giorno di schiarita, ieri era un giorno di frenata sulle riforme, oggi invece sembrerebbe un giorno di schiarita da tutti i punti di vista, dal punto di vista della riforma del Senato, perché il canguro, il famoso canguro, sta facendo al meglio il proprio lavoro, quindi altri emendamenti accantonati e le votazioni che sembrano andare un po' in discesa, questo è il titolo della stampa, e anche dall'altro punto di vista, perché Berlusconi, quindi sul fronte del centrodestra, aprirebbe ad alcune modifiche dell'Italicum anche dal punto di vista delle preferenze, quindi a targhe alterne le riforme, no? Quindi lunedì era apertura, martedì era chiusura, mercoledì era di nuovo mercoledì era di nuovo caos e oggi apertura. Vedremo venerdì come si conclude la settimana. Oltre alle riforme, caso Shalabayeva, con la giustizia italiana che dà torto al governo e ragione alla signora Shalabayeva, e poi altre notizie drammatiche dal Medio Oriente, continuano i raid, continua l'incertezza diplomatica. Allora partiamo dal caso principale di oggi con la prima pagina di Repubblica, il caso Cottarelli, Spending Review, Cottarelli lascerà, scontro con Renzi, l'uomo dei tagli critica, non coperte le nuove spese, Gutgeld pronto a prendere il suo posto. I giornali si dividono un po' nell'interpretazione del caso Cottarelli. Da una parte c'è chi dice che da tempo auspicava di ritornare, di andare al Fondo Monetario Internazionale. C'è chi invece dice che lo scontro è più che altro con il Parlamento, che tende a usare qualunque tipo di piglio per coprire nuove spese con la Spending Review. Altri ancora dicono che invece la divaricazione di opinioni è proprio con il Premier Matteo Renzi. Repubblica racconta: il commissario alla Spending Review è pronto a lasciare l'incarico. In un post su Facebook, e anche qui forse c'è un po' di distinzione con Renzi, Cottarelli preferisce Facebook, Renzi di solito Twitter, punta il dito Cottarelli contro le nuove spese non coperte che vanificherebbero la possibilità di tagliare le tasse. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'emendamento votato alla Camera nel decreto di riforma della pubblica amministrazione che consente 4.000 pensionamenti nella scuola. Ed è scontro con Renzi. L'ira di Mister Forbici è contro quei parlamentari che hanno remato contro. A sostituirlo sarà il consigliere economico del Premier, Joran Gutgeld. Di fianco c'è il retroscena di Federico Fubini, che forse per la prima volta in modo così netto quantifica addirittura quella che sarà l'entità della manovra. Intanto dice che ci sarà e poi dice che la manovra sarà da 16 miliardi. Anche Fubini inizia con il racconto del retroscena del perché Cottarelli ha sollevato questo caso, ma poi si concentra sull'ipotesi della manovra. Pagina 3 di Repubblica: Matteo Renzi e il ministro dell'economia Piercarlo Padoan devono vararla entro il 15 ottobre e il premier pensa a una correzione complessiva dei conti da circa 16 miliardi. Non sarà una passeggiata, scrive Fubini, va coperto. Il bonus da 80 euro ai redditi medio-bassi, che a velocità di crociera costa 10 miliardi di euro l'anno. Va ridotto ancora il deficit pubblico, perché l'ultimo vertice europeo ha respinto la richiesta dell'Italia di rinviare di un anno, dal 2015 al 2016, il pareggio di bilancio, calcolato al netto della frenata economica. Vanno finanziate le missioni militari e i fondi di cassa integrazione per chi non lavora più. In più, parte dei tagli di spesa previsti sono già assorbiti da misure varate sia dal governo di Enrico Letta che da quello di Renzi. Il Premier eredita dal suo predecessore lo schema di una finanziaria che prevederebbe 14 miliardi di tagli di spesa sul 2015, e poi almeno altrettanti l'anno dopo. Ma ora sta arrivando il momento di indicare dove si intende tagliare, perché chi dovrà affrontare sacrifici a favore di chi altri. Si spiega poi nel corso dell'articolo di Federico Fubini che, secondo i piani attuali del governo, la correzione complessiva dei conti del 2015 dovrebbe essere appunto di 16 miliardi di euro, che è, vale poco più dell'1% del prodotto lordo. Non è ancora chiaro come saranno trovate queste risorse, però dice Fubini che Matteo Renzi e la sua squadra puntano molto sull'operato del nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Quindi si punta molto sulla lotta all'evasione o materie affini. E proprio sulla lotta all'evasione, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, c'è il piano. Ecco il piano anti-evasione. Banche dati più efficienti e coordinamento con Banca Italia, Consob e Guardia di Finanza. Pronte le strategie del governo. Individuati 19 profili di categoria a elevata pericolosità sociale. Obiettivo 1,7 milioni di controlli nel 2014. A pagina 2-3 del Sole 24 Ore potete trovare tutti i 19 profili di categoria e tutte le novità sul fronte dei controlli e degli obiettivi della lotta all'evasione. Leggiamo la sintesi in prima pagina. Scambio di informazioni con Banca d'Italia, Consob e IVAS, condivisione dell'analisi di rischio con la Guardia di Finanza, rafforzamento degli studi di settore come strumento di compliance, maggiore impulso alla fatturazione elettronica e strumenti di riscossione calibrati sulla pericolosità del debitore. Sono i punti principali del piano antievasione previsto dal decreto sul bonus IRPEF che il governo dovrà illustrare al Parlamento. Il documento contiene anche i 19 profili degli evasori, dagli affitti in nero alle finte residenze all'estero. Sono indicate le caratteristiche di chi dichiara poco o niente al fisco con il rispettivo grado di pericolosità. Intanto l'Agenzia delle Entrate ha definito il piano dei controlli 2014. Previste 1,7 milioni di verifiche. A fianco l'editoriale del Sole 24 Ore, scritto da Salvatore Padula, dopo i blitz, quindi c'è un cambio di passo, e proprio così è il titolo, primo passo per superare l'emergenza. Più che un piano, scrive Padula, una sfida. La sfida di definire un'azione capace di portare l'evasione a livelli fisiologici, ovvero più vicino sotto il profilo quantitativo, ma anche etico e sociale, a ciò che accade nella gran parte dei paesi europei. Cultura della legalità, semplificazioni, certezza del diritto, tax compliance, banche dati, analisi del rischio. Sono queste le parole d'ordine più ricorrenti nelle 157 pagine del rapporto sulle strategie di contrasto all'evasione che il governo illustrerà presto in Parlamento. Strategie che poggiano sostanzialmente su due pilastri, spiega Padula. Una solida azione di contrasto agli illeciti e un percorso di miglioramento del rapporto tra il fisco e i contribuenti, con molti riferimenti al senso civico e alla cultura della legalità fiscale. Quindi sul Sole 24 Ore ecco il piano anti-evasione. Su questo fronte, sulla prima pagina del Corriere della Sera invece, c'è un'intervista, parte un'intervista che poi va avanti a pagina 21, l'intervista di Maria Volpe a Ezio Greggio, notissimo personaggio della televisione. L'intervista ha questo titolo: il fisco mi ha chiesto un favore, come avrei potuto negarglielo? Greggio e i 20 milioni pagati. Un tapiro a me, dice Greggio, non lo farei entrare. Ma come? Proprio Greggio non farebbe entrare il tapiro. Il presentatore TV si è accordato con l'Agenzia delle Entrate, che gli contestava la residenza a Monte Carlo. Ricci, dice Greggio, sperava che mi arrestassero. Ci sono le foto della carriera di Ezio Greggio. Dolori, paure e rabbia, li ho provati per altro. In poco più di un mese ho perso mia madre, mio cognato e due carissimi amici. Questo è il racconto di Ezio Greggio rispondendo a quello che ha provato nel rapporto, appunto, nei problemi derivati dal suo rapporto con il fisco. Le incubatrici donate dalla mia associazione, che aiuta i nati prematuri, hanno salvato la vita a 11.000 bambini. Giuri di essere sincero, se domani bussasse alla sua porta Valerio Staffelli con un tapiro d'oro, gli aprirebbe? Certo che aprirei, farei entrare Staffelli, ma il tapiro resterebbe fuori. Greggio, cos'è successo? Come ha scritto proprio il Corriere, io non devo pagare quella cifra, né tantomeno devo mettermi in regola col fisco. Lo sono sempre stato. Lo ha anche detto recentemente una sentenza a mio favore. Il fisco ha ipotizzato scorrettezze nei rapporti con la società irlandese, la Wolf Picture Ltd. È la società che utilizza i miei diritti e che da oltre 20 anni produce e distribuisce film all'estero. Il problema è nato sull'interpretazione di norme sulle ritenute che non dovrebbero essere applicate in Italia. E poi c'è il racconto di la solidarietà che ha avuto, e insomma anche in questa intervista si nota un po' di cambiamento nel rapporto con il fisco, anche dall'altro punto di vista, cioè di un contribuente in difficoltà e di un contribuente particolarmente noto. Intanto io ho sempre pagato tutte le imposte fino all'ultimo centesimo in Italia, lo dice anche la sentenza. Poi fisco e tribunale hanno stabilito che ero regolarmente residente all'estero. In Italia al massimo lavoro 4 mesi l'anno, non era una residenza fittizia, lì avevo casa, famiglia, interessi economici. A un certo punto mi hanno chiesto di pagare come se fossi residente in Italia, e quando il fisco, con la gentilezza e il tatto che li contraddistingue, ti chiede un favore, puntini puntini, come fai a negarglielo? E questa è la chiusa dell'intervista di Ezio Greggio sulle questioni fiscali al Corriere della Sera. Forse malizia, forse invece veramente un cambio di passo e di tono. In primo piano. Dunque, sempre Daniele Bellasio in studio, abbiamo parlato del caso Cottarelli, che riguarda soprattutto i conti pubblici italiani e la necessità di trovare coperture, la spesa pubblica, le spese pubbliche da tenere sotto controllo. Su questo tema è ovviamente indispensabile anche trattare l'argomento dei rapporti con l'Europa, perché come ricordava nel suo retroscena Federico Fubini su Repubblica, c'è anche questo come vincolo esterno che obbliga il governo a trovare coperture e forse, dice Fubini, ha una manovra di correzione di 16 miliardi. Sul rapporto con l'Europa è bene guardare anche le pagine 16 e 17 del Sole 24 Ore, perché da una parte c'è un'intervista al ministro delle finanze francese, un'intervista di Marco Moussanet, il corrispondente del Sole 24 Ore. Michel Sapin dice: correggiamo assieme la linea tedesca, Italia e Francia unite per regole più flessibili e per più investimenti. Oggi Sapin vedrà a Roma il ministro dell'economia italiano Piercarlo Paduan, Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, e lo stesso Carlo Cottarelli, commissario alla Spending Review. Spiega Sapin che molto dipende dal fatto che la ripresa è debole in tutta Europa, la crescita europea meno forte del previsto avrà un impatto sui singoli paesi e ogni paese, spiega Sapin, ha i suoi specifici problemi. Il nostro, per esempio, è il debito pubblico, mentre, ricorda nell'intervista sempre Sapin, per la Francia in questo periodo il problema maggiore è quello del deficit. Debito pubblico che quindi ci fa tornare al dibattito in corso sulla spesa pubblica, sul pareggio di bilancio. Sappiamo che c'è anche una campagna referendaria che vuole abrogare alcune norme di una legge varata sotto il governo Monti, che restringe ulteriormente il principio inserito in Costituzione del pareggio di bilancio. Su questo tema il dibattito a pagina 17 del Sole 24 Ore, Franco De Benedetti contro questa recrudescenza di opposizione ai vincoli di bilancio interni, perché, spiega De Benedetti, ci possono essere stimoli che sanno essere rigorosi. Che cosa non va nel dibattito pro e contro l'austerità? E invece alcuni dei promotori, due economisti promotori del referendum sul vincolo italiano al pareggio di bilancio, anzi sulla restrizione ulteriore, spiegano Paolo De Ioanna e Gustavo Piga, con i vincoli contabili di oggi nessun miracolo italiano ci sarebbe stato nella storia e quindi vanno rivisti. Anche sul Corriere della Sera un articolo di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, ricorda che se l'Italia ha dovuto mettere vincoli di questo tipo è perché nel frattempo ha fatto un debito pubblico che ha raggiunto la bella cifra dei 2.200 miliardi. Parlavamo all'inizio però del fatto che nella tanta economia che c'è oggi in primo piano sui giornali ci sono due casi aziendali. Uno particolarmente complesso è quello che riguarda la ex o attuale o vedremo compagnia di bandiera, l'Alitalia. Allora, pare di essere alla stretta finale. Pagina 4 di Repubblica, in retroscena di Ettore Livini, si intitola così: le banche danno l'ok, noi azionisti italiani abbiamo fatto tutti un passo indietro. Bene il vertice di ieri, ma il dubbio è che Etihad bocci la struttura proposta da Poste di una società cuscinetto. Quindi sembra esserci una schiarita, però restano i dubbi, spiega Livini. Un po' di fuoco però brucia ancora sotto la cenere, dopo gli scontri al color bianco tra le banche e i soci tricolori da una parte e le Poste dall'altra dei giorni scorsi. Se James Hogan, che è il CEO australiano della compagnia Etihad, dirà no alla struttura della Midco, che è appunto questa società intermedia che permetterebbe a Poste di investire non soltanto nella vecchia ma anche nella nuova Alitalia, confidava ieri in serata uno dei patrioti della CAI, cioè se Hogan dirà no, non ci sono alternative. Porteremo l'orologio indietro e torneremo alla prima soluzione disegnata e Caio dovrà farsene una ragione. E quindi, insomma, sì, sembra che si vada verso l'intesa, però restano ancora alcuni problemi da affrontare. L'altro caso aziendale invece legato alla Fiat, che tra l'altro ieri, come avete sentito anche nei nostri giornali radio, ha dato i conti, però oggi pagina 3 di Avvenire, passiamo da Repubblica ad Avvenire, un articolo di Giancarlo Galli, il saluto della Fiat a Torino, cosa resterà dell'auto in Italia, il futuro globale di FCA come una storia scritta da sempre, domani l'ultima assemblea a Lingotto, poi il centro a Detroit, venerdì 1 agosto, scrive Galli, nell'assemblea al Lingotto di Torino si chiuderà un ciclo, trasferimento in Olanda della sede legale e nel Regno Unito di quella fiscale, il quartier generale a Detroit. Viviamo in un mondo senza confini, sostiene Sergio Marchionne. Che resterà in Italia? Parecchio sulla carta. Gli stabilimenti di Grugliasco, Maserati, Cassino, Alfa Romeo Giulietta, Lancia Delta, Fiat Bravo, Pomigliano, Panda, Mirafiori, Alfa, Melfi, Jeep e Punto. In Abruzzo i furgoni Ducati. Complessivamente un potenziale produttivo di oltre 600.000 quattro ruote, nonché 1.500 dipendenti, impiegati, tecnici, stilisti, nell'officina 82 su un'area ristrutturata prossima a Mirafiori. A ribadire lo storico radicamento torinese nel giudizio del sindaco Piero Fassino ci sono appunto tutte queste notizie legate al centro di Mirafiori. Eccellenti propositi dunque, sui quali non è lecito dubitare, sebbene, scrive Galli, sommando i numeri, peraltro in continua evoluzione, considerata la crisi del settore, emerge che a pieno regime gli stabilimenti italiani rappresenteranno tra il 15 e il 20% della produzione, con peraltro molteplici interrogativi. Qui viene l'altra faccia della medaglia. In primis i costi, da noi ben più gravosi che in Brasile, Polonia, Serbia e financo gli Stati Uniti. Qui vanno a sommarsi i problemi connessi alla produttività, senza dimenticare la durissima concorrenza tedesca e giapponese, tanto più che inutile nasconderlo, la vera sfida è sui mercati asiatici, dalla Cina all'India con i loro loro 3 miliardi di abitanti. E così conclude Galli questo racconto analitico del giorno importante del Lingotto. Il cane Marchionne, nonostante le criticità finanziarie, hanno gettato il cuore oltre gli ostacoli, mantenendo un indissolubile legame col glorioso passato. Il 30% del capitale, in sostanza la maggioranza di controllo, resterà attraverso la Exor nelle mani della famiglia Agnelli. Quasi un atto di fede nel futuro, onorando gli antenati, perché il pezzo di Galli era ed è anche molto storico. Possiamo a questo punto, dopo aver parlato tanto di economia, fare un aggiornamento breve, perché purtroppo da Gaza le notizie sono quelle che sapete, sentite dai giornali radio, e non ci sono sui giornali di oggi particolari novità. C'è però un'interpretazione che forse vale la pena segnalare su Libero dell'ambasciatore Giovanni Castellaneta. Obama, che disastro, spinge Israele tra le braccia di Putin. L'analisi di Castellaneta, forse con un titolo un po' più forte di quanto non pensava l'autore dell'analisi stessa, è per questo che Israele, spiega Castellaneta, che non ha mai reciso i legami con la Russia, preferisce rinsaldare i legami con Vladimir Putin, anche mentre impazza la crisi ucraina e americani ed europei ragionano su sanzioni più severe contro Mosca. Putin è un capo di Stato dal pugno di acciaio e con eccessi che fanno gridare allo scandalo molti ben pensanti. Resta il fatto che quest'uomo, l'uomo che si fa ritrarre mentre caccia tigri siberiani, ha due enormi atu. Il primo è che Putin agisce razionalmente con decisione quando individua pericoli alle porte di casa in grado di contagiare la Russia. È razionale e non emotivo, né in balia dell'opinione pubblica. Poi, continua l'analisi di Castellaneta, l'altro importante atu è che Putin non abbandona i propri alleati geostrategici. Il tutto mentre in Occidente era in corso l'abituale contorsionismo intellettuale sul da farsi. Mosca invece decide e agisce. Il paradosso di questi giorni è che proprio ciò che turba l'opinione pubblica occidentale riguardo a Vladimir Putin ne rafforza le credenziali agli occhi di Netanyahu. Abbiamo letto nei giorni scorsi anche di telefonate e di contrasti accesi tra Washington e Gerusalemme, e in questo frangente si inserisce l'abile diplomazia di Vladimir Putin. Passiamo allora alla politica italiana. Dunque un giorno di schiarita, anche se non per tutti proprio di schiarita, perché La Stampa è vero titola Senato la riforma è in discesa, però poi Il Giorno titola riforme finisce in rissa. La stessa Stampa che dice che da un punto di vista delle trattative diplomatiche la questione delle riforme oggi segna schiarite, poi però racconta a pagina 2 un florilegio di, diciamo, critiche particolarmente velenose, come proferite ieri nell'aula del Senato. Zerbino, fascista e grasso, il presidente finì nel mirino. Non solo battute e insinuazioni, breve catalogo degli insulti dei senatori dell'opposizione al presidente. Ce n'è di tutti i tipi, li trovate in questo florilegio, appunto, scelto da Mattia Feltri, a pagina 2 della Stampa. Ma che cosa soprattutto sta succedendo dal punto di vista politico? Allora, intanto sta succedendo che il canguro funziona. Che cos'è il canguro? Ecco, cerchiamo di capire bene che cos'è o chi è il canguro. Parola chiave, Sole 24 Ore, pagina 15. Il canguro è la possibilità che un voto su un emendamento faccia decadere quelli molto simili, come è accaduto martedì al Senato, che ne ha cancellati 1.400 dopo la bocciatura di uno analogo. Ieri la Giunta del Regolamento di Palazzo Madama, dopo una riunione di ben 3 ore, ha giudicato legittimo il metodo del canguro anche per i DDL di modifica costituzionale. Gli emendamenti presentati, 7.850, si potrebbero ridurre in questo modo a 4.700, che non sono pochi, però intanto il canguro un po' il suo lavoro l'ha svolto. Ma all'interno di questo dibattito regolamentare, che cosa invece sta accadendo di politico? Sta accadendo che si sta rafforzando, aggravando sempre di più la frattura sul fronte del centro-sinistra, cioè PD e SEL, ricondotto tutta la minoranza del PD a un dialogo più costruttivo e meno litigioso con la maggioranza renziana, la partita si sposta sul fronte del rapporto con SEL. E ci sono quasi tutti i giornali dal giorno, Repubblica, che ipotizzano anche problemi nella tenuta delle giunte regionali. E che cosa sta succedendo? Foglio, pagina 3, secondo editoriale. Nichi Vendola ha cercato di rappresentare il santuario esterno per chi dentro il PD continua a perseguire la tattica bersaniana, a cominciare dai tanti parlamentari nominati da Bersani. Ma l'effetto che ha ottenuto è stato l'inverso. Non sono franati i gruppi parlamentari del PD verso SEL, ma al contrario, quelli di SEL, esistenti solo grazie al premio di maggioranza conquistato con il PD, verso Renzi. Ora si va verso una resa dei conti voluta da Vendola per ripicca e Renzi sembra saper sfruttare la cosa con grande senso dell'opportunità, al fine di togliere dalla strada della sinistra riformista un altro macigno. Quindi il fatto politico che si sta consumando attorno alle riforme in Parlamento è la frattura sempre più netta tra PD e SEL, forse frattura anche strategica per SEL, in quanto ridà una sorta di identità politica, un movimento che sembrava in qualche modo superato dalle istanze del Movimento 5 Stelle da una parte e dalla minoranza del PD dall'altra. L'analisi però complessiva di Marcello Sorgi sulla Stampa punta invece l'attenzione su un altro aspetto, e sull'aspetto che la nostra Costituzione, per il bicameralismo, per il ruolo dei partiti, per la dialettica che c'è sempre stata dal punto di vista politico e culturale, dà un fortissimo potere, anzi lo definisce Marcello Sorgi, uno strapotere alle opposizioni in Parlamento. E ovviamente le opposizioni tendono a usare questo strapotere, ed è questo l'evento politico che invece accade in questi giorni sulle riforme. Sui tempi delle riforme ha parlato ieri al Fatto Quotidiano anche Diego Della Valle, il patron di Toz, che oggi rilascia un'altra intervista abbastanza simile su Repubblica, dicendo appunto che insomma la Costituzione fatta da Einaudi non si può cambiare in 448. C'era ieri, diceva, la metafora dell'uomo con il gelato che decide di cambiare in un pomeriggio al bar la Costituzione. Però anche oggi si torna sui tempi delle riforme e ci torna in particolare il neopresidente eletto della Corte Costituzionale, eletto ieri con 7 voti contro 6, scadrà tra 4 mesi, ovvero Tesauro, il neopresidente della Corte Costituzionale, dice troppa velocità non è sempre un bene, però poi comunque sottolinea che il Parlamento è sovrano per quanto riguarda le riforme e dice comunque che fanno bene le forze politiche a stare attenti a possibili trappole, attenzione a non allungare strumentalmente i tempi. Sulla legge elettorale, dice Tesauro, l'importante è che si faccia al più presto una riforma, visto che è stata proprio la Corte Costituzionale a bocciare in quanto illegittima su più punti la precedente legge. C'è un corsivo perfido con alcuni vezzi italiani, non con una persona in particolare, a pagina 9 di Repubblica di oggi, di Sebastiano Messina, proprio sul presidente della Corte Costituzionale. Il presidente estivo, il titolo del corsivo. Da ieri sappiamo che c'è un portone a Roma oltre il quale non arriva neanche il rumore della crisi. È il portone della Corte Costituzionale, i cui giudici hanno solennemente eletto ieri un nuovo presidente, Giuseppe Tesauro, che però resterà in carica solo per 3 mesi. Ormai è la prassi. Invece di scegliere un presidente che rappresenti autorevolmente la Corte per qualche anno, i giudici eleggono il collega che sta per scadere, sapendo che così poi toccherà a ciascuno di loro, o quasi, il titolo di presidente, e quindi quello di presidente emerito. Ma perché tutto ciò accade, spiega Messina, insieme naturalmente al titolo di presidente emerito c'è lo stipendio di 549.407, cioè 407 euro, pari al triplo del collega della Corte Suprema americana, e alla corrispondente generosa pensione presidenziale, attingendo alla quale possono pubblicare anche un libro, un pamphlet contro la casta, per esempio. Perfido il commento di Sebastiano Messina, e abbiamo parlato di tagli alla spesa, di spesa pubblica, e tanto si è parlato nell'ultimo periodo. Ah, se volete, piccola parentesi, su Libero c'è la classifica degli stipendi per cariche istituzionali paragonabili e simili in altre parti del mondo. Spese pubbliche e spese per la politica, vitalizi. La parola vitalizi è ritornata spesso nell'ultimo periodo. In primo piano, Messaggero, pagina 11, i vitalizi aboliti tornano in busta paga. Regione Piemonte, dopo la stretta sull'assegno di fine mandato, i consiglieri si restituiscono nello stipendio le ex trattenute. Nei cedolini di luglio, 1.320 euro in più, quelli che in passato erano destinati alla pensione corrisposta dal 65esimo anno. Dunque, il vitalizio esce da una parte e rientra dall'altra, ma sempre in tema di vitalizi, se il Piemonte fa questa scelta, la Lombardia ne fa un'altra, o perlomeno sembra farne un'altra. Prendiamo dalle cronache milanesi del Giornale. Vitalizi, la regione ci dà un taglio, ridotte del 10% le indennità degli ex consiglieri. Per incassare bisognerà avere almeno 66 anni. Certo, cioè, spesso questi temi possono essere affrontati con un po' di demagogia, però d'altra parte è chiaro che se si chiede una spending review a tutti, è giusto anche per gli elettori chiederla agli eletti. Però tra gli eletti, eletti amici e colleghi, io vorrei decidere assieme a Mauro Meazza, che abbiamo al telefono. Buongiorno, buongiorno Daniele. Vorrei decidere se dobbiamo commentare la notizia dell'imminente arrivo di Osvaldo, è la prima pagina della Gazzetta di oggi, in primo piano, oppure le imminenti ferie del collega e amico Mauro Meazza. Ah, sì, beh, mi sembra che questo non meriti commenti. Io vorrei iscrivermi nella schiera dei debosciati, che già sappiamo annoverare diversi personaggi illustri, e quindi tipo annuncio, diciamo, al popolo tutto, per quanto gliene possa interessare, che oggi e domani poi basta, però basta per qualche giorno con queste indicazioni, diciamo, in diretta. Però naturalmente vorrei dire in primo luogo, io vado in ferie, ma la guida del Sole 24 Ore no. Anche oggi trovate la guida pratica per la famiglia, oggi dedicata in particolare all'acquisto della casa e agli investimenti immobiliari. All'acquisto perché, insomma, anche in tempi, come dire, di mutui un po' erogati col contagocce, non ce ne vogliono le banche, ci sono però delle modalità di acquisto innovativo che possono essere perseguite, ad esempio, non so, il rent to buy, che è un anglismo, insomma, vuol dire, insomma, questa sorta di affitto a riscatto, ma lo diciamo con una certa imprecisione. Tutto è spiegato molto meglio nelle due pagine della guida del Sole 24 Ore che trovate oggi. Ho bisogno, Daniele, di fare un radiofisco. Comunicazioni un po', ecco. Cioè, dal telefisco storico del Sole 24 Ore al radiofisco? Radiofisco, sì, qui radiofisco. Sì. Sono comunicazioni, diciamo, per gli appassionati della materia come me. Allora, in realtà sarebbe qui radiolavoro, ti spiego perché. Perché Dimmi. È stata diffusa la circolare del Ministero sul decreto legge cosiddetto Poletti. Sì. Allora, di questa circolare riferiamo in norme e tributi, dico solo attenzione alla soglia del 20%. Basta, non posso dire altro perché sono anche informazioni di una certa delicatezza. Ti posso dire che... Però è una sorta di lancio anche per i giorni a venire, quindi. Sì, ti posso anche dire. Dimmi. Che chi legge il Sole 24 Ore in formato digitale, sai che abbiamo diversi lettori, parecchi possiamo anche dire lettori. Il primo quotidiano digitale, oltre 180.000. Quindi posso dire loro che possono trovare direttamente il collegamento a questo documento, questa circolare, proprio dalla pagina tra quelle di norme e tributi, là dove ci si occupa appunto della circolare, si accede direttamente al documento medesimo, e questo, diciamo, per la parte un po' più criptica. Meno criptica, ma più oramai popolare, c'è la proroga del 770. È ufficiale. No. Come no? Non è ufficiale. Cioè, sì, è ufficiale. Però? Perché c'è il comunicato. Però il decreto arriverà. E ne riferiamo. Cioè, è quella tipica ufficializzazione per gradi all'italiana. Diciamo che c'è stato. C'è la slide. C'è un comunicato. C'è stato un comunicato che annuncia che ci sarà un decreto. Per cui c'è la proroga del 770. Ma adesso, insomma, non vorrei entrare troppo in piacevolezze tributarie. Sì. Dico solo che. Non so che. Piacevolezze tributarie è una definizione stupenda. Piacevolezze tributarie, beh, sai che poi la proroga del 770 era stata molto evocata. Adesso, peraltro, già i produttori di software ne richiedono un'altra, perché pare che sulla dichiarazione IMU degli enti non commerciali ci siano pure problemi, quindi col termine fissato si chiede un'altra proroga, insomma. Vedremo come andrà a finire. Vedremo anche come andrà a finire all'Italia, perché leggevo con curiosità Gianni Dragoni stamattina su Alitalia e, insomma, forse ci siamo, ma forse no. Sì, infatti. Tanto bene a decifrare, no, è difficile riassumere. I due articoli, il montaggio di articoli che oggi compaiono sul Sole 24 Ore, la sostanza è: c'è stato un aumento della disponibilità di poste, ma parziale, perché siamo sempre lì a oscillare tra questa Newco e la Midco. E la Midco. Abbiamo fatto, abbiamo fatto un po' radiofinanza, mi sa. Assolutamente. Ora, fuori di parlare in inglese. Senti, tu hai parlato di cose digitali, no? E quindi io ti vorrei, come dire, regalare questa notizia che ho trovato molto bella: selfie e risate su Twitter, parola magica che, insomma, che ci piace. La sfida delle donne turche, a pagina 13 della Stampa. Così ribattono al vice premier che aveva consigliato di non ridere in pubblico. Un selfie forse non le salverà, ma di certo le sta aiutando a protestare. Le donne turche hanno scelto il modo più ironico, ma anche più carico di significato, per rispondere al vice premier Bülent Arinç, che due giorni fa aveva caldamente consigliato alle signore della Mezzaluna di non ridere in pubblico. In poche ore sul social network Twitter sono stati postati circa 300.000 autoscatti di fanciulle più o meno giovani, sorridenti.